La scuola secondaria di primo grado. La scuola secondaria di primo grado dura 3 anni e sono previste 30 ore settimanali. Nel programma di studio sono incluse lingua e letteratura italiana, storia, geografia, educazione civica, 2 lingue dell'Unione Europea, scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, educazione tecnica, informatica, artistica, musicale, fisica e religiosa, non obbligatoria.